Or Sefatia, figlio di Mattan, Godolia, figlio di Pascur, Iucal, figlio di Selemia, e Pascur, figlio di Malchia, udirono queste parole che Geremia stava dicendo al popolo. Così dice il Signore: chi abita in questa città morrà di spada, di fame e di peste, ma chi uscirà verso i Caldei vivrà. La sua vita, cioè, sarà per lui come bottino, ma vivrà. Così dice il Signore: senza dubbio sarà consegnata questa città in mano dell'esercito del re di Babilonia e la conquisterà. Allora i principi dissero al re: muoia quest'uomo, perché con questo discorso scoraggia le mani degli uomini di guerra che sono rimasti in questa città e le mani di tutto il popolo proferendo loro tali parole. Quest'uomo infatti non cerca la pace per questo popolo, bensì la sventura. Disse allora il re Sedecia: eccolo nelle vostre mani, perché il re non può alcunché contro di voi. Presero allora Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, figlio del re, la quale era nel cortile della guardia. Calarono Geremia con le corde. Or nella cisterna non c'era acqua, bensì fango. Così Geremia affondò nel fango. Ebed-Melech, l'etiope, un eunuco che stava nella casa del re, ebbe notizia che avevano messo Geremia nella cisterna. Or mentre il re stava seduto presso la porta di Beniamino, Ebed-Melech uscì dalla casa del re e parlò al re così: o re, mio signore, hanno agito male quegli uomini in tutto ciò che hanno fatto contro il profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà là dentro a causa della fame, perché non c'è più pane nella città. Allora il re ordinò a Ebed-Melech l'etiope: prendi con te 30 uomini ed estrai il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia. Ebed-Melech prese gli uomini con sé e andò nella casa del re al di sotto della tesoreria, prese di là vesti lacere e stracci e le gettò a Geremia nella cisterna con le corde. Poi Ebed-Melech l'etiope disse a Geremia: metti queste vesti lacere e stracci sotto le tue ascelle sopra le corde. Geremia fece così. Allora tirarono su Geremia con le corde e lo fecero salire dalla cisterna. Così Geremia restò nel cortile della guardia. Quindi il re Sedecia mandò a prendere il profeta Geremia e lo fece venire presso di sé al terzo ingresso della casa del Signore e gli disse: voglio domandarti una cosa, non nascondermi nulla. Geremia rispose a Sedecia: se io te la dico, non mi farai forse morire? E se io ti consiglio, non mi ascolterai. Ma il re Sedecia giurò a Geremia in segreto: vivente è il Signore che ci ha dato questa vita. Non ti farò morire, né ti consegnerò in mano di quegli uomini che cercano la tua vita. Allora Geremia disse a Sedecia: così dice il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele: se tu uscirai verso i capi del re di Babilonia, avrai salva la vita. Questa città non sarà arsa con il fuoco e vivrai tu e la tua casa. Ma se non uscirai verso i capi del re di Babilonia, allora sarà consegnata questa città in mano dei Caldei e l'arderanno col fuoco, tu non scamperai dalle loro mani. Il re Sedecia disse a Geremia: io temo i giudei che sono passati ai Caldei, temo che mi consegnino nelle loro mani e si sfoghino contro di me. Geremia rispose, «Non ti consegneranno. Ascolta, tuttavia, la voce del Signore in ciò che io ti sto per dire, affinché ti vada bene ed abbia salva la vita. Ma se tu rifiuti di uscire, questo è ciò che mi ha mostrato il Signore. Ecco, tutte le donne che sono rimaste nella casa del re di Giuda saranno condotte ai capi del re di Babilonia ed esse canteranno: Ti han sedotto ed han prevalso su di te gli uomini di tua fiducia. Affondarono i piedi tuoi nella melma e poi si voltarono indietro. Tutte le tue donne, poi, i tuoi figli, saranno condotti verso i Caldei, ma tu non scamperai dalle loro mani. Sì, in mano del re di Babilonia sarai consegnato e sarà bruciata con il fuoco questa città. Disse allora Sedecia a Geremia: Nessuno sappia queste parole, così tu non morrai. E se i principi avranno sentore che io ho parlato con te e verranno da te e ti diranno: Riferisci ciò che hai detto al re senza nasconderci nulla, affinché non ti facciamo morire, e ciò che il re ha detto a te, allora dirai loro: Sono andato a deporre la mia supplica dinanzi al re perché non mi faccia ritornare alla casa di Jonata per non morirvi. Vennero infatti tutti i principi da Geremia e l'interrogarono, ma egli rispose loro esattamente quelle parole che il re gli aveva ordinato. Perciò lo lasciarono tranquillo perché non si seppe nulla della conversazione. Così Geremia restò nel cortile della guardia fino al giorno in cui fu conquistata Gerusalemme.